prendere un dio dalle nubi, portarlo nella fabbrica dove lavori. Strappare un dio dal passato per accettarlo dentro al tuo cuore. Rubare un dio dai tempi dove è rimasto fermo per tanti anni. Parlarne liberi in piazza, al mercato dalla gente, perché Dio non è un Dio morto, e chi pensa che egli è morto, si sta sbagliando, si sta sbagliando, perché parlarono con lui, trovandolo tanto triste, oggi parlano di lui. Che tanta gente si riunisce nel suo nome, però non gli degna mai di entrare. Perché tanta gente sempre parla nel suo nome, però non gli degna mai di parlare. Padre Dios de las nubes, che va nella fabbrica donde trabaja, quita Dios de retablo, grabado dentro de tu corazón. Roba Dios de los templos donde le encerraron hace tantos años. Déjale limpio las plazas, llévale también al mercado del pueblo, porque Dios es un Dios muerto. Dalle nubi, portarlo nella fabbrica dove lavori. Strappare un dio dal passato per accettarlo dentro il tuo cuore. Rubare un dio dai templi dove è rimasto fermo per tanti anni. Parlarne liberi in piazza, al mercato tra la gente, perché Dio non è un Dio morto. Si sta sbagliando, perché? Perché Dio non è un Dio morto, e chi pensa che egli è morto, si sta sbagliando, si sta sbagliando, si sta sbagliando, perché?